«Che ne è della marchesa d'Arpajon?» chiese Madame de Cambremer. «Ma è morta», rispose Bloch. «La confondete con la contessa d'Arpajon che è morta l'anno scorso». La principessa d'Agrigento si unì alla discussione. «Giovane vedova d'un marito vecchio, ricchissimo e portatore d'un gran nome, era molto richiesta in matrimonio e ne aveva acquistato una grande sicurezza di sé. Anche la marchesa d'Arpajon è morta da circa un anno». «Un anno? E io vi dico di no», replicò Madame de Cambremer. «Sono stata a una serata di musica da lei meno di un anno fa». Bloch non poteva prender parte utilmente alla discussione, non più d'un qualsiasi gigolò del bel mondo, perché tutte quelle morti di persone anziane erano a una distanza eccessiva, o per l'enorme differenza d'età, o per il recente arrivo, per esempio di Bloch, in una società diversa, alla quale s'accostava di sbieco e al momento del suo declino, in un crepuscolo dove non poteva fargli luce il ricordo d'un passato che non gli era familiare. E quanto alle persone della stessa età e dello stesso ambiente, la morte aveva perduto parte del suo strano significato. D'altronde si mandava ogni giorno a prendere notizie di tante persone in punto di morte, di cui alcune si erano riprese, mentre altre avevano dovuto soccombere, che non ci si ricordava più con precisione se una certa persona che non si aveva mai occasione di incontrare avesse superato la sua flussione di petto o fosse andata al creatore. In zone così attempate, la morte si moltiplicava e diventava più incerta. A questo incrocio di due generazioni e di due società, che quasi mal situate in forza di ragioni diverse per distinguerle, confondevano la morte con la vita. La prima si era mondanizzata, era diventata un incidente che qualificava grosso modo una persona, senza tuttavia che il tono in cui se ne parlava sembrasse sottintendere che l'incidente in questione era per lei la fine di tutto. Si diceva: «Ma non ricordate, il tale è morto», come si sarebbe detto: «È decorato, è dell'Accademia», oppure, ed era un po' la stessa cosa dal momento che impediva di partecipare alle feste, «è andato a svernare al sud, gli hanno prescritto la montagna». E ancora, se uno era un uomo noto, quel che lasciava morendo aiutava a ricordare che la sua esistenza era finita. Ma per le semplici persone di mondo molto anziane si faceva confusione sul fatto che fossero o non fossero morte, non solo perché si conosceva poco o si era dimenticato il loro passato, ma perché non c'era alcun rapporto fra loro e il futuro. E la difficoltà in cui ciascuno si trovava nel fare una cernita fra le malattie, l'assenza, il ritiro in campagna, la morte della vecchia gente di mondo consacrava, assieme all'indifferenza degli esitanti, la personalità insignificante dei defunti. «Ma se non è morta, com'è possibile che non la si incontri mai, né lei né suo marito?» chiese una vecchia signorina che amava fare la spiritosa. «Ti dirò io la ragione», rispose sua madre, che, sebbene quinquagenaria, non perdeva una sola festa. «È che sono vecchi. A quell'età non si esce più». Si sarebbe detto che prima del cimitero vi fosse tutta una città chiusa dei vecchi, dalle lampade sempre accese nella bruma. Madame de Saint-Hubert troncò la discussione dicendo che la contessa d'Arpajon era morta un anno prima di una lunga malattia, ma che la marchesa d'Arpajon era morta anche lei molto rapidamente, in modo del tutto insignificante. Morte che assomigliava dunque a tutte quelle vite e nello stesso tempo spiegava come mai fosse passata inosservata, scusando chi faceva confusione. Al sentire che Madame d'Arpajon era veramente morta, la vecchia signorina lanciò verso sua madre uno sguardo allarmato, perché temeva che la notizia della morte di una sua contemporanea potesse colpirla. Le sembrava già di sentir parlare della morte di sua madre con questa spiegazione. Era stata molto colpita dalla morte di Madame d'Arpajon. Ma la madre della vecchia signorina, al contrario, ogni volta che scompariva una persona della sua età, aveva l'impressione d'averla spuntata in una gara su qualche concorrente agguerrita. La loro morte era il solo modo in cui prendesse ancora piacevolmente coscienza della propria vita. La vecchia signorina si accorse che la madre, che non era parsa turbata dicendo che Madame d'Arpajon era reclusa nelle dimore da cui gli stanchi vegliardi non escono quasi più, lo era stata ancora meno sentendo che la marchesa era entrata nella città accanto, quella da cui non si esce più del tutto. Questa constatazione dell'indifferenza della madre divertì lo spirito caustico della vecchia signorina e per far ridere le amiche faceva un racconto orripilante del modo allegro, sosteneva, in cui la madre aveva detto sfregandosi le mani «Mio Dio, quella povera Madame d'Arpajon è davvero morta!» Anche coloro che non ne avevano bisogno per rallegrarsi d'essere vivi, questa morte li rese felici. Ogni morte, infatti, è per gli altri una semplificazione dell'esistenza, elimina lo scrupolo di mostrarsi riconoscenti, l'obbligo di fare delle visite. Non così era stata accolta da Elstir la morte del signor Verdurin. Una signora andò via perché aveva altri ricevimenti e doveva far merenda con due regine. Era una cocotte d'alto bordo che avevo conosciuta in altri tempi, la principessa di Nassau. Se non fosse diminuita di statura, il che dava l'impressione che avesse, per via della testa situata molto più in basso di prima, quel che si chiama un piede nella fossa, a stento la si sarebbe detta invecchiata. Era ancora una Maria Antonietta dal naso austriaco, dallo sguardo incantevole, conservata, imbalsamata grazie a mille trucchi deliziosamente uniti che le facevano un viso lilla. Un viso sul quale aleggiava l'espressione confusa e tenera di chi è costretto ad andarsene, di chi promette teneramente che tornerà, di chi scompare discretamente, dettata dal gran numero di relazioni scelte da cui era attesa. Nata quasi sui gradini d'un trono, sposata tre volte, mantenuta a lungo e sontuosamente da grandi banchieri, senza contare i mille capricci che si era concessa, portava con leggerezza sotto l'abito, di color malva, come gli occhi splendidi e rotondi e come il viso carico di trucco, i ricordi un po' imbrogliati di quel foltissimo passato. Poiché, filandosela all'inglese, mi passò davanti, la salutai, mi riconobbe, mi strinse la mano e mi fissò con le tonde pupille color malva con l'aria di dire «Da quanto tempo non ci vediamo? Ne parleremo un'altra volta». Mi stringeva la mano con forza, non ricordando esattamente se in carrozza, una sera che dopo un ricevimento della duchessa di German mi riaccompagnava a casa, fra noi due ci fosse stato o no qualcosa. Per precauzione parve alludere a ciò che non era avvenuto, cosa che non le riusciva difficile dato che sapeva assumere un'espressione tenera per una torta di fragole e quando era costretta ad andarsene prima che la musica fosse finita, affettava la disperazione d'un abbandono, peraltro, non definitivo. Incerta, tuttavia, sulla scappatella con me, non prolungò la furtiva stretta di mano e non mi disse una parola. Mi guardò soltanto, come ho detto, in un modo che significava quanto tempo, e in cui ripassavano i suoi mariti, gli uomini che l'avevano mantenuta a due guerre. E i suoi occhi stellari, simili a un orologio astronomico intagliato in un opale, segnarono una dopo l'altra tutte le ore solenni di quel lontanissimo passato che sapeva infallibilmente recuperare quando vi doveva dire un buongiorno, che era sempre una scusa. Poi, lasciatomi, si diresse al piccolo trotto verso la porta perché nessuno si disturbasse per lei, per mostrarmi che se non si era intrattenuta con me, era stato solo a causa del suo ritardo, per riguadagnare il minuto perso a stringermi la mano e arrivare puntuale dalla regina di Spagna, con la quale doveva far merenda da sola a sola. Anzi, nei pressi della porta mi parve che stesse per prendere il galoppo, e in effetti correva alla sua tomba.